America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. I can announce that America will lead a broad coalition to roll back this terrorist threat. Barack Obama ieri notte, come vi avevo anticipato, ha parlato alla nazione, ha detto: oggi vi annuncio che l'America guiderà una larga coalizione per sconfiggere la minaccia terroristica posta da ISIL. Con un obiettivo chiaro, noi indeboliremo e infine distruggeremo ISIL attraverso una strategia di azione antiterroristica prolungata e onnicomprensiva. Queste le parole del presidente americano ieri notte, 10 settembre, oggi 11 settembre 2014, tredicesimo anniversario dell'attacco all'America. Abbiamo il ricordo di una giornata tristissima che ha cambiato il corso della storia, e una giornata e un ricordo segnati da questo discorso di ieri notte, con la promessa di una nuova guerra, di un nuovo fronte, di una nuova alleanza. Sentiamolo ancora Barack Obama mentre parla al paese a reti unificate dalla Casa Bianca. This is a core principle of my presidency. If you threaten America, c'è un principio di fondo nella mia presidenza: chi minaccia l'America non troverà un posto sicuro dove rifugiarsi, perciò ecco la mia strategia. Finalmente presenta agli americani quella strategia che fino a poche settimane fa sembrava mancare dai manuali della Situation Room, dalla camera di guerra nei sotterranei della Casa Bianca, davanti alle sfide che minacciavano l'ordine mondiale. E quello di ieri sera è stato un discorso bellicoso, pronunciato però con sobrietà da un presidente, che non voleva le guerre, soprattutto in Medio Oriente. È un discorso che ha coperto ogni aspetto di questa nuova missione americana. Barack Obama l'ha articolata in quattro punti. Al primo punto: ci sarà una campagna sistematica di attacchi aerei in Iraq, ma anche in Siria, e con l'apertura in Siria appunto di fatto di un fronte nuovo, soprattutto se pensiamo a un anno fa, quando dopo l'uso di armi chimiche da parte del governo di Assad, il leader siriano, la Casa Bianca minacciò attacchi aerei che poi non furono mai portati avanti. Perché? Anche perché il Congresso votò contro e perché c'era un'opinione pubblica fredda. Solo il 30% vedeva con favore attacchi aerei. Oggi, dopo aver visto due americani sgozzati, decapitati in video, dopo aver visto che i militanti in nero, vestiti di nero, questa orrenda figura di questi terroristi dell'ISIS, dopo aver visto che hanno catturato prigionieri di guerra a centinaia per poi ucciderli, l'opinione pubblica americana è schierata con il presidente, pensate, addirittura con una maggioranza del 71%. Secondo punto: appoggi per le forze curde e irachene sul campo. Saranno loro a dover distruggere fisicamente l'ISIL. In Iraq c'è un governo, ha detto Obama, con cui possiamo collaborare, in Siria no. Per l'Iraq saranno inviati altri 475 soldati americani, ma solo con incarichi per l'addestramento, intelligence, per assistere con la logistica. Dunque Obama rassicura gli americani: non ci saranno soldati in combattimento, e l'auspicio è che in Iraq possa finalmente emergere un governo non solo coeso ma multietnico, cosa che finora non c'è stata. Terzo punto: il terrorismo. Questa guerra è una guerra contro il terrorismo. Il pericolo di nuovi attacchi sul suolo americano aumenta con la presenza dei cosiddetti nationals fra i terroristi, cioè di cittadini occidentali con passaporti americani e europei che vanno a combattere con queste forze estremiste islamiche. E dunque Obama dice: non gli si può dare respiro, e ha promesso che discuterà di questo in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite tra due settimane nel contesto dell'Assemblea Generale dell'ONU. Al quarto punto c'è l'assistenza umanitaria, l'aiuto per i rifugiati, per i profughi, per coloro che sono stati sradicati dalle loro case dai terroristi. Con una precisazione importante, perché qui, dice Obama, non si tratta di combattere l'Islam, perché questi terroristi, questi assassini dimostrano con la loro crudeltà di non avere nulla a che fare con un movimento religioso. Sentiamo di nuovo Obama che parla questa volta del come si procederà, a partire dalla formazione di una coalizione. Secretary Kerry was in Iraq today, meeting with the new government and supporting their efforts to promote unity. Il segretario di Stato John Kerry si è incontrato oggi con il nuovo governo iracheno, dice Obama. Nei prossimi giorni sarà impegnato in un nuovo viaggio in Medio Oriente, in Europa, per reclutare nuovi alleati, in particolare nel mondo arabo. La coalizione sarà una coalizione mista con membri appunto della NATO, come la Gran Bretagna, che è già pronta a bombardare la Siria, o la Francia o l'Italia, che saranno pronti a dare il loro contributo in termini di logistica, di addestramento, di intelligence. E c'è poi, fa riferimento Obama, all'alleanza regionale, e quando fa riferimento a Kerry è perché il segretario di Stato in questi giorni è in Medio Oriente per tessere le fila per la creazione di questa coalizione regionale, che potrebbe includere Arabia Saudita, Egitto, Giordania. Infine, il presidente ha ricordato l'11 settembre. My fellow Americans, we live in a time of great change. Tomorrow marks 13 years since our country was attacked. Barack Obama, devo dire, il momento è sicuramente commovente, la coincidenza di questa nuova guerra con questo anniversario che ci porta sempre una grande tristezza è particolarmente importante, particolarmente suggestiva, emozionante. Obama dice: viviamo in un tempo di grande cambiamento, sono passati 13 anni da quando la nostra nazione è stata attaccata, la prossima settimana saranno passati 6 anni da quando l'America è caduta nella peggiore crisi economica dalla Grande Depressione, ma nonostante questi shock, nonostante il dolore e il lavoro che ci è voluto per riprenderci, non c'è altra nazione al mondo oggi meglio posizionata per raccogliere le opportunità del futuro dell'America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive questi tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!